diciamo, fondamentali di questa fiera. Oggi invece parleremo soprattutto delle lotte migranti in Italia, quindi della condizione dei migranti e dello sfruttamento che subiscono la legislazione razzista e xenofoba che subiscono il nostro paese, quindi la non accoglienza nei centri di rifugiati, momenti di rivolta, di tensione, di autodeterminazione, di lotte sociali che i migranti da un po' di tempo a questa parte portano avanti, soprattutto perché escono da un'invisibilità e da un'oppressione, dall'ombra delle quali vengono relegati dalla nostra legislazione, come dicevamo prima. Diciamo, oggi ospitiamo presso il nostro spazio sociale un consentito i compagni del collettivo antirazzista Barese e dell'ex operatore occupato, i quali, diciamo, portando in giro, vengono ospitati e organizzano presso vari collettivi, centri sociali, librerie, associazioni, la presentazione del libro La normale eccezione, la proiezione del video documentario Uno stato di cose del gruppo Pappa. Uno stato di cose, diciamo, brevemente, si chiama proprio così perché descrive lo stato delle cose attuale per quanto riguarda la vita dei migranti nel nostro paese, quello che subiscono tutti i giorni, ma si chiama così anche perché sappiamo bene che le leggi che sono susseguite insieme ai governi, dalla Turca Napolitano, dalla Bossidini, oggi relegano i migranti a essere appunto braccia da sfruttare, oggetti, quindi cose, oggetti. Alla vostra fotografica stupenda che avete attorno a voi oggi, ma pure di rumore collettivo, si chiama Lotte Migranti, che ritrae appunto momenti di lotta migrante, di autogestione anche, di protesta in Puglia, momenti che noi abbiamo seguito bene, abbastanza bene accaduti di recente. Lo stato di cose, il documentario che dicevo prima, parla soprattutto delle lotte migranti in Italia e arriva fino alla, diciamo, arriva a toccare quasi la rivolta del Cara di Manduria. Cosa importante, la presentazione del libro e la vendita del libro stesso va a sostenere, a finanziare economicamente per il 50%, perché l'altra metà naturalmente va alla casa editrice, il supporto legale che sta seguendo da quest'estate i migranti arrestati, le persone arrestate dopo la rivolta del primo agosto del Cara di Bari Palese. Ci sembra doveroso portare a questi migranti, a queste persone recluse, per essersi ribellate appunto a quello stesso di cose di cui prima parlavamo, e a tutti i compagni che vengono inquisiti quotidianamente e vengono accusati di sopportare queste rivolte, la nostra solidarietà antirazzista militante. Quindi il libro è lì a vostra disposizione, il costo di 13 euro, accattatevi il procediamo ora alla visione del documentario, che dura una cinquantina di minuti, poi proseguiremo nella i compagni scriveranno per bene il libro di cosa tratta e andremo avanti col dibattito. Non meno. tutti. Noi siamo per il software libero. Non so se è un Non penso, però la legge non è colpa del resto delle persone. E non so, ho messo l'altro. Ho messo l'altro, sì, ho detto. Maroni, vuoi you? E Maroni che è Maroni. Io qui sono qua in Italia dal 96, però nonostante le apparenze posso anche dire che sono anche italiano, sono italiano, venuto dall'estero, però italianissimo, anche a tutti gli effetti, perché mia madre è stessa italiana. Per complicare la cosa sono anche nato a Mosca, sì che difficilmente posso, diciamo che solitamente vedo difficoltà, no? Nell'altro, negli altri, a mettermi in una categoria già più stabilita. Tra il bianco e il nero c'è un gran mistero, perché uno si sente così ricco che con l'altro non potrà fare altro che aiutarlo, e quando si decide va verso l'altro

no sì, lo posso riavviare su di lui. Angela, voglio proprio con quello dei carini. Luca, ehi, che dici? Proviamo un altro computer. Io qui sono qua in Italia dal 97, però nonostante le apparenze posso anche dire che sono anche italiano, sono italiano, venuto dall'estero, Cile, va verso l'altro, eppure il tuo italiano a casa, ma te non, questo non lo sai. Non lo sai perché lui non ti mostra niente di sé. Ora mi sono qua Luca, vedi, è una borsa di soldi, un'opportunità di essere aiutato per le difficoltà che vive, tutto quanto. E non dimostra niente di sé. Il divario. Spesso anche quando si fa una transizione, per esempio, di una la possibilità piuttosto che qualche sicurezza prodotta. Mario, prendere. Quello del comitato. Salta. Salta. Ma come lo dici? Vuole fiorsi? Il tiro da lì. Strada. Sono il lettore. Di lente forse. No, il programma. Però anche solitamente vedo difficoltà, no, nell'altro, negli altri, a mettermi in una categoria già prestabilita. Bianco e nero sia un gran mistero, perché uno si sente così ricco che con l'altro non potrà fare altro che aiutarlo, e quando si decide va verso l'altro, ossia il bianco verso il nero, per aiutarlo, e si dimentica di essere aiutato. Il negro va verso il bianco solitamente, ora questo caso generale, no? Forse va nel particolare, le cose cambiano, però in generale funziona che poi il negro, quando vede un bianco, quando lo vede in Africa, vede una borsa di soldi, un'opportunità di essere aiutato per le difficoltà che vive e tutto quanto, e non dimostra niente di sé. Anche nel mondo del lavoro è molto generalmente il bianco sta sopra e il nero sta in basso, anche se questo nero che fa il guardiano a casa tua è capovillaggio quando ritorna a casa, perché quando ritorna a casa nel suo villaggio lui è capovillaggio, eppure il tuo guardiano a casa, ma te non, questo non lo sai, non lo sai perché lui non ti mostra niente di sé. Ora mi trovo quando cercare, sono con la schiena, sono due bambini e oggi 1 marzo sono qua a fare questa giornata con l'idea che la situazione che ci ha portato a 1 marzo non è accettabile. No, poi andiamo a riempire della punta. Cerchiamo di arrangiarci. Però vuol dire, è possibile che un sistema di welfare, che viene, che è un'istituzione, debba poi, cioè la soluzione avviene, dall'istituzione è passata a noi stessi, quindi fondamentalmente lo stiamo facendo noi la strutturata web. E a dare i trattati sulle relazioni elenchi, per sicura sono un diario. Sono venuto per il mio piano, ho 29 anni. Ho lasciato il mio paese per politico, per politico, per quello. Qua ci sono più di 60 migranti, dove vanno questi migranti? Quindi non parliamo, tra virgolette, di quelli che vengono chiamati immigrati clandestini, sono sorelle e fratelli migranti con diritto di asilo, quindi hanno diritto alla seconda accoglienza e hanno diritto a una casa e un alloggio, così come queste famiglie italiane sono in difficoltà e hanno diritto ad avere un alloggio. Sono stato per 2 anni in carriera, per così lasciato nel mio paese. Internazionale per i trattati di Dublino e accordi sull'asilo politico del 2008, i richiedenti devono, diciamo, non possono allontanarsi per più di 3 mesi dalla fortuna quando hanno richiesto il documento. Sono salvato, io ho un figlio di 4 anni. Non visto da 4 anni, ma sono posto. Ho detto come tornare tutti e non torno più. Tanto torno quanto quando il governo cambia forse torna, non cambia mai, non torna, non posso tornare.